buongiorno chiesa, ho detto, vabbè, Ivan ha detto sei pronta nel caso ti chiamo, io dovete sapere che ho il terrore di salire sul palco, mi piace tantissimo essere giù, incoraggiare, costruire, essere appunto un operaio, quando mi chiamano sul palco impazzisco, cioè vorrei scomparire, però è un privilegio essere con voi questa mattina e non lo diamo per scontato, come diceva anche ieri ai vostri pastori, voi avete dato tantissimo alla nostra vita senza saperlo, perché siete una chiesa generosa, siete una chiesa piena di visione e la vostra visione ha fatto sì che ci fosse una chiesa a Napoli, perché vedendo il vostro esempio abbiamo sentito il desiderio di vedere lo stesso nella nostra città, quindi vi siamo grati ai vostri pastori e ai pionieri di questa chiesa per la visione che avete avuto e che continuate ad avere, quindi grazie per averci qui, per averci qui con noi, voi. Siamo... Di solito è lui quello che non parla, però. È il mio turno adesso. Buongiorno chiesa. Come state? Allora, io farò fatica a non emozionarmi, poi vi dirò perché. Però voglio iniziare così. Voglio iniziare dicendo che siete una chiesa fantastica. Siete per me, e l'ho sempre detto, i leader della, ci sono leader della nostra chiesa qui che possono confermare, ho sempre detto e continuerò a dire che dal mio punto di vista siete una delle chiese più belle d'Italia e siete un faro per la nostra nazione, lo siete. La seconda cosa che devo dire è che avete dei pastori stupendi, il pastore Mirko e il pastore Giorgia. Il pastore Mirko non è solo il vostro pastore, ma il pastore Mirko è stato anche il mio pastore quando io non avevo una chiesa. Giorgia non è solo il vostro pastore, ma è stato anche il pastore per mia moglie quando noi non avevamo una chiesa. Abbiamo vissuto un momento all'ombra e in quel tempo loro c'erano e ci sono sempre stati. Mirko è per me un fratello maggiore, è una persona che mi sa ascoltare. Molto. E sono eternamente grato per questo. La terza cosa che devo dire è che non sono solo loro gli eroi, ma il vero mio eroe è il pastore Pino con sua moglie Sofia. Avevo bisogno di dirglielo prima e devo anche dire un'altra cosa. Devo dire che una volta... nella vostra bellissima conferenza ecclesia che il pastore Mirko tornerà a fare. Amen. Amen. Amen. Amen. Capito, pastore Mirko? Se non ti è chiaro, lo ripeto, che il pastore Mirko tornerà a fare. In quella conferenza il pastore Pino, tra le tante cose belle che ha detto una cosa che ha conquistato il mio cuore. E ha detto, giovani, non fate i vecchi, e vecchi, non fate i morti. È un eroe, sei un eroe, e io ti amo e ti stimo. Vedete, sapete perché sono molto molto emozionato di essere qui? Perché ero qui 8 anni fa, entrai da quella porta, la prima persona che incontrai fu... Tutti lo sapete che è un grandissimo personaggio, fu Antonio. E voi mi dite, e sei rimasto? Sì, sono rimasto. E si parlava di tante cose, si parlava della Chiesa, di tante cose che fa la Chiesa, si parlava della Chiesa Hillsong, perché forse Antonio era appena tornato dal college, o da poco tornato dal college, e si diceva, chissà se un giorno Hillsong verrà in Italia. E essere qui dopo 8 anni e sapere che a 250 chilometri da questo posto Dio ha scelto me e mia moglie per pastorare Hillsong Napoli mi ricorda che Dio è fedele. Dio è fedele. Dio è fedele. Vedo che il gruppo della lode mi ha lasciato solo. Ora, detto questo, stamattina vi condividerò quello che Dio ha messo nel mio cuore e È una stagione in cui Dio mi parlava particolarmente e nelle passate settimane io e mia moglie abbiamo avuto il privilegio di trascorrere del tempo con una nostra buona amica. E parlare con lei mi ha portato a pensare qualcosa. Stavamo avendo un discorso e mia moglie dice sempre che io non sono in grado di fare due cose insieme. Forse c'ha ragione. Però sta di fatto che mentre parlavamo con questa nostra buona amica, Dio metteva nel mio cuore qualcosa e parlava al mio cuore, e parlava al mio cuore riguardo ai versi di Matteo 16, dal verso 13, che dicono: quando Gesù giunse dalle parti della Cesarea di Filippo, domandò ai suoi discepoli chi è il figlio dell'uomo, secondo la gente. Risposero: alcuni dicono che è Giovanni il battezzatore, altri che è il profeta Elia, altri ancora che è Geremia o uno degli antichi profeti. E Gesù riprese: e voi che dite? Chi sono io? Simon Pietro rispose: tu sei il Messia, il Cristo, il figlio del Dio vivente. Allora Gesù gli disse: beato te, Simone, figlio di Giona, perché non hai scoperto questa verità con forze umane, ma essa ti è stata rivelata dal Padre mio che è in cielo. Per questo io ti dico che tu sei Pietro, e su questa pietra io costruirò la mia comunità. Nemmeno la potenza della morte potrà distruggerla. Io ti darò le chiavi del regno di Dio. Tutto ciò che tu sulla terra proibirai sarà proibito anche in cielo. Tutto ciò che tu sulla terra permetterai sarà permesso anche in cielo. Vogliamo chiudere un attimo gli occhi e pregare. Padre, ti prego affinché ogni singola parola, Signore, che sarà detta stamattina, Signore, possa essere ispirata da te, Padre. Possano essere le tue parole, Signore, che tu vuoi dire alla tua Chiesa, ad ognuno di noi questa mattina, e che tu possa entrare nelle stanze segrete del nostro cuore ed operare dove c'è bisogno di operare, nel nome di Gesù. Amen. Voglio raccontarvi una storia. Ero l'anno prossimo, compirò 10 anni di matrimonio. Mia moglie ha resistito 10 anni con me. E 10 anni fa, quindi 9 anni fa, scusate, eravamo nella nostra luna di miele in Thailandia. E sapete, mia moglie è famosa per essere molto coraggiosa, per stare sulle barche e sugli aerei. E chi la conosce bene sa che sto scherzando. E eravamo in Thailandia e eravamo su un'isola che si chiamava Koh Samui. E avevamo letto di questa escursione a per un'altra isola che si chiamava Koh Tao, ed era lì, c'era una riserva naturale dove c'era questo lago che con i raggi del sole si illuminava di colore oro e quindi veniva chiamato il Lago d'Oro. E io cercai con tutte le mie forze di convincere mia moglie a dire: andiamo su quest'isola, vediamo questa riserva naturale, deve essere un posto bellissimo. La convinsi, eravamo da poco sposati, forse lei voleva rendermi felice e io dall'altro lato volevo rendere felice lei. Non avevamo mai fatto un viaggio insieme, non eravamo mai stati da soli all'altro lato del mondo, io non sapevo di tutti i suoi timori e le sue ansie e le sue paure. Così arrivammo in questo porto e chiedemmo per questa escursione, trovammo questa barca, pagammo e io chiesi così al volo, disse: quanto tempo di navigazione è per quest'isoletta? Disse: un'oretta. Sapete, noi a Napoli abbiamo un arcipelago vicino a noi, Capri, Ischia, Procida, le isole sono più o meno a un'oretta. Dissi: vabbè, è un'oretta, è come se andassimo a Capri, è facile, è veloce. Quello che si dimenticarono di dirmi è che era un'ora di navigazione a 50 nodi, controcorrente. Così Dio iniziò a parlarmi, perché vidi il capitano di questa barca e assomigliava a Jack Sparrow. Chi conosce i film e la saga La maledizione della prima luna, eccetera, eccetera, I pirati dei Caraibi? Io sono appassionato di quei film e lì Dio stava cercando di parlarmi. Guardando negli occhi del capitano, lì lui assomigliava a Jack Sparrow e Dio voleva farmi capire: che stai facendo? Vuoi divorziare prima di iniziare? Però, sapete, la voce del cuore ti dice: no, tu devi andare lì. Però io guardai negli occhi del capitano Jack Sparrow e sentivo tutte le persone che dicevano: no, io mi siedo qui, io mi siedo lì, no, io vado sulla punta, no, io mi siedo a poppa, questi sono i posti più comodi. E io guardai negli occhi del capitano Jack Sparrow che mi disse: siediti qui. E io, senza farlo notare a mia moglie, seguii il consiglio del capitano. Mi sedetti dietro di lui, insieme a mia moglie, iniziammo la nostra ora di navigazione verso quest'isola, controcorrente, con una corrente folle che ci remava contro e un vento folle che ci soffiava contro. Credetemi, mia moglie ve lo può confermare, tutte le persone che erano su quella barca erano completamente bagnate, le onde entravano nella barca ed io e lei, che eravamo comodamente seduti dietro al capitano, eravamo completamente asciutti, completamente asciutti. E così come accade in Matteo 16, in quella circostanza alcuni dicevano, io mi siederò a poppa, io mi siederò in punta, io mi siedo al lato sinistro, io mi siedo al lato destro. E il maestro diceva, siediti qui, questo è il tuo posto. E come in Matteo 16, Gesù prende i suoi discepoli, amo Gesù perché era un rivoluzionario, e prende le persone e le porta al di fuori della loro zona di comfort, perché li stava portando dalla Galilea, che è una terra giudea, dove c'era una sola cultura, alla Cesarea, che era una terra gentile, dove c'erano tante culture, c'erano tanti dei da poter adorare, tante preghiere da poter fare, tante chiese da poter visitare, e Gesù prende i suoi discepoli per formarli, li porta in questa terra e inizia a parlare con loro e fa a loro la prima domanda. Chi dice la gente che io sia? E qui c'è il primo titolo del mio sermone. Io ho sempre troppa difficoltà a dare un titolo a un sermone così. Il primo titolo è Alcuni dicono. Alcuni dicono, quando Gesù fa questa domanda ai suoi discepoli, i suoi discepoli rispondono, alcuni dicono che è Giovanni il Battezzatore, alcuni dicono che è il profeta Elia, altri ancora dicono che è Geremia, alcuni dicono che è uno degli antichi profeti, alcuni dicono, eravamo su quella barca e alcuni dicevano che il miglior posto era a poppa, alcuni dicevano che il miglior posto era in punta, altri dicevano che il miglior posto era a sinistra, ma il maestro diceva, questo è il tuo posto, questo è il tuo posto. E in quel giorno Gesù chiede ai suoi discepoli, che cosa dice la gente che io sia? Alcuni dicevano, e vorrei soffermarmi per un attimo su questo alcuni dicevano, perché viviamo nell'era in cui le informazioni e la disinformazione probabilmente conta più della verità. Siamo nell'era in cui Covid sì, Covid no, mascherina sì, mascherina no, vaccino sì, vaccino no, dieta vegana sì, dieta vegana no, dieta carnivora sì, dieta carnivora no, i legumi fanno benissimo, i legumi fanno malissimo. La disinformazione e l'informazione, oggi siamo nell'era in cui probabilmente conta più della verità stessa. E in quel momento Gesù affonda, fa la prima domanda e dice, che cosa dice la gente che io sia? E la sua seconda domanda è, che cosa dite voi che io sia? Gesù chiede ai suoi discepoli, la sua famiglia, la sua casa, la sua chiesa, che cosa dite voi che io sia? Immagino l'imbarazzo dei discepoli, simile a quello di mia moglie quando mi chiede, hai lavato i denti a Zion? Io gli dico, Gesù chiede questa domanda ai suoi discepoli e loro probabilmente erano nel panico quando in un momento Simone risponde con queste parole, tu sei il Messia, il Cristo, il figlio del Dio vivente. Simone non sta lasciando spazio al dubbio. Simone non sta lasciando spazio all'informazione. Simone non sta lasciando spazio alla disinformazione. Simone dice, tu sei il Messia, il Cristo, il figlio del Dio vivente. Sapete per un attimo Simone che cosa ha fatto? Ha fatto così. Ha smesso di ascoltare e credere al mormorio di quegli alcuni dicono, e ha iniziato ad ascoltare la voce che era nel suo cuore, che gli suggeriva e gli diceva: tu sei il Messia, il Cristo, il figlio del Dio vivente. E la Bibbia ci dice subito che Gesù benedisse Simone e lo benedì a tal punto che scelse in quel giorno di cambiare il suo nome da Simone a Pietro. Vedete, l'etimologia del nome Simone è Shim'on, che significa colui che ascolta. Colui che ascolta. Fino a quel giorno Simone era stato colui che ascolta, colui che probabilmente aveva dato spazio nella sua vita a quegli alcuni dicono, colui che era stato in giro e ascoltava quegli alcuni dicono, colui che parlava con la gente e ascoltava quegli alcuni dicono. Ma quel giorno la rivelazione della grazia di Dio, l'amore di Dio, il suo perdono probabilmente si rivelò alla sua vita e lui disse: tu sei il Messia, il Cristo, il figlio del Dio vivente. Gesù benedisse Simone e in quel momento diventò Pietro. Pietro. E sapete Gesù che cosa disse? Gesù disse: da oggi in poi tu sei Pietro e su questa pietra io edificherò la mia comunità. Su quale pietra? Su Pietro? Immaginate Gesù andare dal pastore Mirko e dirgli: tu eri Simone? Da oggi in poi tu non sei più Simone, ma sei Pietro. E su questa pietra io edificherò la mia chiesa. Potrebbe mai Gesù edificare la sua chiesa su un uomo? Potrebbe mai Gesù scegliere di dare questa responsabilità ad un singolo individuo? La teologia ci dice che Gesù in quel momento indicò Pietro, ma indicò Pietro per fare riferimento alla rivelazione che Pietro aveva avuto in quel momento, alla rivelazione di chi era Gesù, il Messia, il Cristo, il figlio del Dio vivente. Su questa rivelazione Gesù quel giorno scelse di costruire la sua comunità. Su questa pietra. Vedete, molto spesso nella nostra vita abbiamo dato spazio agli alcuni dicono, all'informazione che ti viene data dal tuo collega di lavoro, dal tuo compagno, dalla tua compagna, dai tuoi amici, dalla tua migliore amica, dal tuo migliore amico, da tuo padre, da tua madre. Ma il giorno in cui tu ed io scegliamo di appoggiare la nostra vita sulla rivelazione di Cristo dentro di noi, Dio verrà da me e ti dirà: su questa roccia, su questa pietra, io edificherò la mia comunità. E se come me questa mattina tu sceglierai di tappare le tue orecchie, smettere di ascoltare gli alcuni dicono, la seconda parte di questo messaggio è per te e per me, perché il mio secondo titolo è: su questa pietra, il giorno in cui io e te decidiamo di appoggiarci su questa pietra, su questa rivelazione, sul Messia, sul Cristo, il figlio del Dio vivente, tre cose accadono nella mia e nella tua vita. La prima, se ti senti comodo, prendi appunti. La prima è: tu ed io saremo saldamente piantati. Il giorno in cui io e te smetteremo di ascoltare le informazioni esterne, smetteremo di fidarci di ciò che il mondo esterno dice e inizieremo ad ascoltare la voce di Cristo, il Messia, il figlio del Dio vivente, io e te saremo saldi su questa roccia, e su questa roccia lui edificherà la mia e la tua vita, ed io e te saremo saldamente piantati. Matteo 7 al verso 24 dice: chi ascolta queste mie parole e le mette in pratica sarà simile ad un uomo intelligente che ha costruito la sua casa sulla roccia. È venuta la pioggia, i fiumi sono straripati, i venti hanno soffiato con violenza contro quella casa, ma essa non è crollata, perché le sue fondamenta erano sulla roccia, su questa pietra. Al contrario, Chi ascolta queste mie parole e non le mette in pratica sarà simile ad un uomo sciocco che ha costruito la sua casa sulla sabbia. È venuta la pioggia, i fiumi sono straripati, i venti hanno soffiato con violenza e la casa è crollata e la sua rovina fu grande. Cosa significano questi versi? Che se oggi io e te decidiamo di saldare in modo, di piantare in modo saldo la nostra vita su questa roccia, la pioggia non cadrà, il vento non arriverà, la tempesta non avverrà. Gesù non ci dice questo. Gesù non ci dice questo. Ma Gesù ci dice che quando tutto questo avverrà, la mia e la tua vita sarà salda sulla roccia. La mia e la tua vita sarà salda sulla roccia, su questa roccia, su questa pietra. Allora stamattina voglio dirti una cosa. Accade spesso che per le circostanze della vita noi scegliamo di scambiare la solida roccia con le sabbie mobili di cui alcuni dicono. Non so tu, ma io questa mattina voglio costruire la mia vita sulla solida roccia. Questa mattina io non voglio appoggiarmi sulle sabbie mobili delle emozioni, ma voglio essere saldo sulla roccia del mio credo. Questa mattina non voglio appoggiarmi sulle sabbie mobili della paura e dell'insicurezza, ma voglio essere sulla salda roccia della mia fede. Questa mattina io non voglio essere trascinato dalle sabbie mobili dell'ansia, ma voglio costruire e vivere sulla salda roccia del riposo che è in Cristo. Grazie Pastore Mirko per aver condiviso quel verso stamattina. Questa mattina io scelgo di non vivere per le sabbie mobili della depressione, ma voglio saldare la mia vita sulla salda roccia della gioia che è in Cristo. Questa mattina io scelgo di non lasciarmi influenzare dalle sabbie mobili della vergogna, ma voglio lasciare spazio alla salda roccia del perdono, dell'amore e della grazia di Dio che si rinnova sulla mia vita ogni giorno. Non un giorno sì ed un giorno no, ma ogni giorno. La seconda cosa che accade se io e te scegliamo di tappare le nostre orecchie, smettere di dare credito a quegli alcuni dicono e fidarci di Cristo il Messia, il figlio del Dio vivente, è che non saremo solo saldamente piantati, ma saremo eternamente protetti. Eternamente protetti. Sono innumerevoli i versi nella Bibbia che parlano di protezione, ma c'è questo verso che io amo, che dice al Salmo 18, al verso 3, dice: il Signore è la mia roccia. Il Signore è la mia roccia, la mia fortezza, il mio liberatore, il mio Dio è la mia roccia, in Lui ho un rifugio. Ed Egli è il mio scudo, è la forza che mi salva. Lodi al Signore, io l'ho invocato ed Egli mi salva dai miei nemici. Che cosa stava facendo il salmista in questa occasione? Vedete, Davide era circondato dai suoi nemici. Non è il caso di dilungarci su questa storia, ma Davide era circondato dai suoi nemici e in quel momento lui trovò rifugio dove? Nella roccia. Nella roccia. I suoi nemici lo accerchiavano, ma nella roccia, in quella cava, lui stava dicendo: il Signore è la mia roccia, la mia fortezza, il mio liberatore. Il mio Dio è la mia roccia, in Lui ho un rifugio. Non importa stamattina come si chiamano i tuoi nemici. Questa mattina non importa qual è la cosa che ti sta aspettando alla porta. Se questa mattina come il salmista tu sei nella roccia, io e te saremo salvi. Io e te saremo liberi. Io e te saremo eternamente protetti. Non so voi, ma io amo i film che riguardano le scalate alle montagne. E ce ne sono tanti. Mi mettono così tanta ansia che però non so per quale motivo sono collegato a guardarli lì connesso. E quanti conoscono il film Everest? Amo quel film, sapete perché? Perché mi trasmette un'adrenalina e mentre lo guardo immagino di essere lì. Non vorrei essere lì, ma immagino di essere lì. E la verità è che ho pensato al salmista, che probabilmente era in una condizione come quella degli alpinisti e degli scalatori che erano lì a scalare il Monte Everest. Arriva la bufera e in quella bufera loro trovarono un rifugio e quel rifugio era nella roccia. Amico, amica, questa mattina, il 14 agosto del 2022, io sono qui per dirti una cosa, che è il giorno in cui tu ed io sceglieremo di zittire il mormorio esterno ed inizieremo ad ascoltare la voce del Padre, del Messia, il Cristo, il Figlio del Dio vivente. Io e te saremo saldamente piantati, io e te saremo eternamente protetti. E l'ultimo punto che voglio condividere con te stamattina, mentre il team di lode si prepara a salire, e questa è la cosa che io preferisco del mio e del tuo Gesù, perché vedi, il mio e il tuo Gesù non ci guarda nell'ottica di cosa siamo oggi, ma il mio e il tuo Dio, il mio e il tuo Padre, ci guarda nell'ottica di chi noi possiamo essere in Lui. E se noi saremo saldi su quella roccia, su quella pietra, io e te saremo saldamente piantati, io e te saremo eternamente protetti, e io e te saremo costantemente in progresso, costantemente in progresso. Probabilmente stamattina non ami ciò che sei, probabilmente stamattina odi ogni cosa che fa parte del tuo presente. Probabilmente questa mattina ti senti la persona più gretta, più brutta, più sporca davanti alla presenza di Dio. Ma tu stai guardando te stesso pensando che Gesù ti guardi attraverso i tuoi occhi. Ma Gesù non ti guarda attraverso i tuoi e i miei occhi, grazie a Dio. Lui ci guarda attraverso i suoi occhi. E io e te dobbiamo solo fare una cosa, piantare la nostra vita saldamente sulla roccia che è Cristo Gesù, mettere i nostri piedi saldi affinché le sabbie mobili della vita non ci trascinino. Io e te dobbiamo fidarci di Lui, perché se ci fidiamo di Lui saremo eternamente protetti. E se inizieremo a guardare la nostra vita e lasceremo a Lui fiducia di guardarci attraverso i Suoi occhi, io e te saremo eternamente in progresso, costantemente in progresso. Vedete, nei versi che abbiamo letto in Matteo, Gesù dice: per questo io ti dico che tu sei Pietro e su questa pietra io costruirò la mia comunità. Che cos'è la comunità? Dal greco questa parola significa ecclesia, come la stupenda conferenza della vostra chiesa. Ecclesia, comunità. Pensi forse che la comunità e la chiesa siano 90 minuti la domenica mattina? Pensi forse che la comunità, l'ecclesia, la chiesa siano il link dal quale ci stai guardando online? Pensi che la Chiesa, la comunità, sia la congregazione che siamo qui? Amico, amica, la Chiesa siamo io e te. Cristo guardava Pietro e i suoi discepoli dicendo che su questa pietra, su questa rivelazione, io costruirò la mia comunità. Io costruirò te e me. Te e me. Gesù questa mattina non vuole guardarti per ciò che non sei. Gesù questa mattina non vuole guardarti per tutto ciò che non fai. Gesù questa mattina non vuole guardarti per tutto ciò che non hai. Gesù questa mattina vuole guardarti attraverso i tuoi occhi, i suoi occhi, per dirti: tu sei, tu hai e tu fai. Sai perché? Perché tu sei mio e tu sei la mia comunità. Tu sei la mia chiesa, tu sei la mia sposa e io voglio prendermi cura di te. Io non voglio lasciarti al mormorio degli alcuni dicono. Io non voglio lasciarti a quello che in terra gentile questa mattina tu stai ascoltando. Ma io questa mattina vorrei che tu aprissi il cuore a Gesù, perché lui vuole mettere i tuoi piedi sulla salda roccia, affinché le sabbie mobili della vita non potranno portarti via. Mentre ti alzi in piedi, vorrei chiederti di chiudere i tuoi occhi. E vorrei leggere insieme a te questo verso, ma tieni gli occhi chiusi. Tieni gli occhi chiusi. Se fosse possibile, vorrei dire alla regia di abbassare le luci in sala, nel rispetto della privacy delle persone che sono qui. In Colossesi 2, al verso 6, è scritto: poiché avete accolto Gesù Cristo, il Signore, continuate a vivere uniti, uniti a Lui, come alberi che hanno in Lui le loro radici, come case che hanno in Lui le loro fondamenta. Tenete ferma la vostra fede nel modo che vi è stato insegnato. Amico, amica, tutto mi sento fuorché un insegnante, ma quello che voglio dirti questa mattina è che se insieme a me tu sceglierai di spegnere su off al mormorio esterno, a quegli alcuni dicono, e inizierai a puntare i tuoi occhi su Gesù, su questa pietra, su questa roccia, da questa mattina tu ed io saremo saldamente piantati, tu ed io saremo eternamente protetti e tu ed io saremo costantemente in progresso. Gesù questa mattina non ti guarda con gli occhi di un padre obsoleto, di un padre che si accontenta del tuo passato, ma Gesù vuole donarti un futuro radioso. Gesù vuole donarti un futuro benedetto e Gesù vuole donarti un presente unito a Lui. Ma questo non dipende da Lui, questo dipende solo da me e da te. Allora mentre ci prepariamo a lodare le parole che la lode ha previsto per noi in questo momento, io vorrei chiederti di lodare e di usare queste parole come la tua preghiera. Dopodiché tornerò e pregherò per ognuno di noi affinché questa mattina non possa essere una mattina in cui tu ed io siamo venuti in chiesa per portarci a casa un'emozione. Perché vedi, questa mattina, se io e te passeremo dall'essere Simone, colui che ascolta, a Pietro, colui che fa, sulla pietra, colui su cui Dio vorrà fondare la sua comunità, la rivelazione su cui Dio vorrà fondare la sua comunità, voglio dirti una cosa accadrà, che la tua nuova identità porterà con sé una nuova autorità e tu ed io saremo investiti di una nuova autorità in Cristo, perché saremo uniti a Lui. Lodiamo insieme.